Questo è un podcast di Rivista Militare. 80 anni da El Alamein, di Carlo De Risio. Capitolo 3. Prima battaglia di El Alamein. Primo 31 luglio 1942. Al Cairo, mentre i reparti italiani e tedeschi si avvicinavano ad El Alamein, ci fu quello che venne ironicamente chiamato il mercoledì delle ceneri. Dal giardino dell'ambasciata britannica si levavano infatti volute di fumo. I funzionari bruciavano fasci di documenti segreti in previsione del peggio. Molti clienti dell'Hotel Shepherd cominciarono una ritirata strategica verso l'Hotel King David di Gerusalemme. Per 3 anni la guerra nel deserto aveva fatto registrare un movimento pendolare in un alternarsi di vittorie e sconfitte degli italo-tedeschi e dei britannici. Mai, tuttavia, l'oscillazione del pendolo verso Oriente era andata al di là di Sidi El Barrani. Ora invece erano cadute, una dopo l'altra, Marsa Matruh, Matin Bagush, Fuka, El Daba, Sidi Abidier Rahman. Sulla strada per Alessandria, poco più di 100 chilometri da percorrere, restavano soltanto le località di El Alamein, El Hammam, Barj el Zarab. Nel porto di Alessandria, le navi della Mediterranean Fleet stavano per salpare, mentre una squadra navale francese, internata nel porto egiziano dal 1940, si preparava all'autoaffondamento. Il generale Auchinleck, pur consapevole della gravità della situazione, l'esito della successiva battaglia rimase in forze per almeno 2 settimane. Era deciso a resistere. Al di là dello shock subito dall'ottava armata, dopo 5 settimane di ininterrotte sconfitte, le unità disponibili per la difesa di Alessandria e del Delta erano tutt'altro che trascurabili. La 50ª divisione britannica e la 1ª divisione sudafricana, dopo oltre 1000 chilometri di ritirata da Ain el Ghazala a El Alamein, avevano salvato il nerbo dei loro battaglioni. Quasi al completo era la 2ª divisione neozelandese riordinata in Siria, energicamente comandata dal generale Freyberg, un veterano della battaglia di Creta e di precedenti campagne nel deserto, rimasto seriamente ferito a Marsa Matruh. Oltre alla 18ª brigata indiana, giunta dall'Iraq, c'era la 4ª brigata indiana. La prima a difesa della posizione di Deir el-Sheen, la 2ª di Abu Waiz, nell'interno, ai margini della depressione di Al-Kattara. Quanto alle unità mobili, Auchinleck disponeva ancora di 150 carri della 1ª divisione corazzata e aveva creato una brigata, la 4ª corazzata leggera, formata interamente da autoblinde. In conclusione, una forza combattente ancora di tutto rispetto, che era sotto la copertura di un ombrello aereo le cui stecche erano formate dalle agguerrite squadriglie della RAF. Contro questo schieramento, quello che rimaneva dell'armata italo-tedesca disponeva di un'esigua punta corazzata formata da 55 carri tedeschi e poche decine di carri medi e leggeri delle divisioni Ariete, Littorio e Trieste. In considerazione di ciò e dell'altrettanto esigua consistenza delle unità di fanteria, l'investimento dell'intera posizione di El Alamein, da nord a sud, non era possibile, senza considerare che lo stesso Rommel comprese soltanto nei giorni successivi che il settore vulnerabile della posizione era quello meridionale. Rommel, anche quando lasciò il teatro di guerra africano, respinse sempre l'accusa di aver giocato d'azzardo con la sua galoppata verso Oriente, andando fatalmente incontro a una crisi logistica e alla reazione britannica, quella aerea soprattutto. Ma il primo urto, in considerazione delle condizioni dell'armata italo-tedesca, ebbe innegabilmente le caratteristiche di un colpo di mano. Si faceva affidamento sul fattore morale e spirituale, che era di esaltazione e di euforia da parte dei soldati dell'asse e di prostrazione da parte dei britannici. Riattivare il mordente delle truppe fu il compito prioritario e difficile del comandante in capo britannico. Occorre dire che il generale Auchinleck ci riuscì con la sua presenza sul campo, combattente tra i combattenti. Nel pomeriggio del 30 giugno, la 90esima divisione leggera tedesca, o meglio, ciò che rimaneva della divisione, meno di un sesto dell'organico, urtò contro le difese britanniche e furono esplosi i primi colpi della battaglia di El Alamein. Auchinleck aveva previsto un attacco sul centro-destra del suo schieramento e le brigate erano state disposte sul terreno in conseguenza. Non si sbagliava. Il 1 luglio, il DAC tentò di forzare la posizione di El Alamein con una celere progressione, ma venne investito dal fuoco concentrico dell'artiglieria britannica, mentre la RAF interveniva con attacchi a volo radente. L'inizio del processo di disgregazione dei piani di Rommel, e con essi della prospettiva di una marcia vittoriosa su Alessandria, avvenne a Deir el-Shein, tra El Alamein e Bab el-Kattara, a ovest dell'altura di Ruweisat. La 18esima brigata indiana oppose per tutto il giorno una tenace resistenza e quando alla fine fu sopraffatta, aveva distrutto 18 dei 55 carri coi quali i tedeschi erano entrati in combattimento. Nelle memorie sulla Seconda Guerra Mondiale, Churchill, per respingere le accuse di quanti, anche allora, affermavano che i britannici risparmiavano il loro sangue facendo combattere gli altri popoli del Commonwealth, scrive che le divisioni indiane erano in realtà anglo-indiane e come tali dovevano figurare anche nei documenti ufficiali, oltre che nelle relazioni sulle battaglie. Comunque, anglo-indiane o indiane tout court che fossero, le divisioni fornite dalla Perla dell'Impero fecero il loro dovere, tanto nella campagna in Nord Africa quanto nella campagna d'Italia. Questo per sottolineare che all'inizio della prima battaglia di El Alamein, la 18esima divisione indiana ebbe un ruolo importante e sconvolse la tabella di marcia dell'armata italo-tedesca. In quelle primissime giornate del luglio 1942, con un caldo torrido, Auchinleck capì che l'armata italo-tedesca stava combattendo con la tensione delle sue ultime energie. Pure una speranza di sfondare c'era da parte delle truppe dell'asse e le sorti della battaglia rimasero in bilico. Scrive Rommel sotto la data del 2 luglio. Durante la notte il comandante dell'aviazione mi aveva informato che la flotta di Alessandria aveva lasciato il porto. A viva forza volevo ottenere una decisione nei prossimi giorni. I britannici non sembravano avere più fiducia in se stessi e a quanto pareva si preparavano a una ritirata. Ero fermamente convinto che un vasto sfondamento da parte delle mie truppe avrebbe sparso il panico nelle file nemiche, ma le scarne formazioni indiane e tedesche si stavano consumando come cera al fuoco. A questo riguardo fa molto effetto nelle relazioni britanniche leggere che il 3 luglio la divisione corazzata Ariete fu distrutta in seguito a un attacco della seconda neozelandese sostenuta da carri e artiglieria. In realtà furono distrutte le reliquie dell'Ariete, ridotta a una dozzina di carri, a 30 pezzi di artiglieria e a poche centinaia di uomini. La seconda neozelandese era sempre una grande unità, su 3 brigate bene armate. Il cedimento della divisione corazzata italiana scosse anche Rommel. Questo colpo ci arrivò del tutto inatteso, perché nei combattimenti durati lunghe settimane presso Knightsbridge, l'Ariete, sia pure sotto protezione dell'artiglieria e dei carri tedeschi, si era battuta bene contro tutti gli assalti britannici, sebbene subisse sensibili perdite. Ora gli italiani non erano più in grado di rispondere alle enormi esigenze della situazione. Dopo l'Ariete fu la volta della divisione di fanteria Sabartha, ricostruita dopo la campagna del 1940-41 e non ancora bene orientata, a essere investita dalla nona australiana. Come si vede, le riserve britanniche stavano man mano affluendo. Poi vennero investiti i resti della Trieste e delle divisioni di fanteria. L'altura di Ruweisat, orientata in direzione est-ovest, era stata in buona parte occupata dagli italiani e venne perduta, poiché Ruweisat, al pari dell'altura di Alamaifa, con le stesse caratteristiche, era una posizione chiave, la sua perdita fu grave. Come si è detto all'inizio, il terreno nel settore settentrionale di El Alamein è piatto e uniforme, per cui i rilievi del terreno appena percettibili diventarono di grande importanza tattica. In seguito anche il capo di Stato Maggiore, generale imperiale Alan Brock, rimase stupito per la poca accentuazione delle alture, comprese Ruweisat e Alamaifa. su ciò che accadde nei primi giorni del luglio 1942 a El Alamein, decisivo è il giudizio, sereno e obiettivo, dello stesso Rommel, che merita di essere riportato per intero, tanto più che i tedeschi, allora e in seguito, non furono mai ben disposti nei confronti dei combattenti italiani. Poi, scrive Rommel, crollò la forza di resistenza di molte unità italiane. È per me un dovere, come camerata e in particolare come comandante in capo delle unità italiane, stabilire con tutta chiarezza che la colpa delle disfatte da esse subite nei primi giorni di luglio davanti a El Alamein non è dei soldati. Il soldato italiano era volenteroso, generoso, buon camerata e per le sue condizioni aveva dato un rendimento superiore alla media. Bisogna dire che le prestazioni di tutte le unità italiane, ma specialmente delle unità motorizzate, superano di molto ciò che l'esercito italiano ha fatto negli ultimi decenni. Molti generali e ufficiali suscitarono la nostra ammirazione dal punto di vista umano come da quello militare. Corsivo dell'autore. La sconfitta degli italiani fu conseguenza dell'intero sistema militare e statale italiano, del cattivo armamento e del poco interesse che molte alte personalità, capi militari e uomini di Stato, avevano per questa guerra. Spesso l'insufficienza italiana impedì la realizzazione dei miei piani. In media il comando italiano non era all'altezza della guerra nel deserto, la quale richiede fulminee decisioni e rapidissima attuazione delle medesime. L'addestramento della fanteria non rispondeva affatto alle esigenze di una guerra moderna. L'armamento della truppa era così cattivo che già per questa ragione essa non poteva tener fermo senza l'aiuto tedesco. Oltre alle manchevolezze tecniche dei carri armati, troppo corta la gittata dei cannoni e debolezza dei motori, soprattutto l'artiglieria, con la sua insufficiente mobilità e lunghezza di tiro, offriva un chiaro esempio del cattivo armamento. Le unità erano dotate di armi anticarro in misura del tutto insufficiente. Il vettovagliamento delle truppe era così cattivo che gli italiani dovevano spesso chiedere viveri ai camerati tedeschi. Durante i combattimenti dei primi giorni di luglio, il comando di Rommel diventò improvvisamente sordo, perché vennero a mancare le preziose intercettazioni dei messaggi, aggiornatissimi sui piani britannici, inviati dal rappresentante militare statunitense al Cairo, colonnello Bonner Frankfellers, al War Department. Tel El Elsa, in arabo piccola collina di Gesù, il 10 luglio, nel corso di un attacco della nona australiana, venne travolta la compagnia intercettazione del DAC, comandata dal valente capitano Alfred Seebohm. Questa preziosa unità era stata spostata incautamente dagli stessi tedeschi, a ridosso della prima linea, invece di restare nel terreno retrostante. Tra le carte prese nel carrozzone di Seebohm, gli australiani trovarono anche alcuni dispacci di Fellers, che il nostro SIM, Servizio Informazioni Militare, intercettava e decrittava da 6 mesi, comunicandoli a Kesserling e a Rommel. Seebohm, gravemente ferito, venne trasportato al Cairo, dove morì, resistendo a tutti i tentativi britannici di farlo parlare. Naturalmente fu dato l'allarme e la fonte Fellers venne a mancare in un momento cruciale. L'improvvisa sordità della compagnia intercettazione fu un'autentica catastrofe che si aggiunse ai rovesci di quei giorni. L'armata italo-tedesca, è vero, stava ricevendo rinforzi, come la 164esima divisione leggera tedesca, trasportata da Creta senza automezzi, la divisione Bologna, riorganizzata nelle retrovie, e 14 gruppi di artiglieria. Erano inoltre in arrivo la divisione paracadutisti Folgore e la brigata paracadutisti comandata dal generale Ramk, entrambe inizialmente destinate a calarsi su Malta. Ma la pressione dell'ottava armata britannica, con l'affluenza di unità sempre più numerose, stava aumentando e Auchinleck aveva riassunto l'iniziativa. Costretto a un continuo, snervante lavoro di rammendo del fronte di El Alamein, Rommel cominciava a denunciare i primi segni di sfiducia. Il suo astro si stava appannando, perché cocente era la delusione per la mancata conquista di Alessandria, del Cairo, di Suez. Il 17 luglio, a El Daba, Rommel si incontrò con Cavallero, Bastico e Kesselring e, per la prima volta, manifestò apertamente propositi di ripiegamento. «È meglio tornare sulla linea Sollum-Alfaia», disse il maresciallo. Kesselring osservò subito. «Un ripiegamento mette in crisi i campi d'aviazione avanzati e tutta l'organizzazione aerea». Cavaliere tagliò corto. «Non vedendo ragione di ripiegare, i rinforzi sono già in viaggio e bastano, almeno per ora, per resistere dove siamo». In effetti, il giorno dopo questo colloquio, tre gruppi di artiglieria si schierarono a sinistra della divisione Trento, che occupava uno dei settori più minacciati, e si preannunciava l'arrivo in Libia della divisione Pistoia, con mezzi tuttavia inadatti per operare nel deserto. Il 19 luglio, sempre a El Daba, Rommel manifestò nuovamente propositi di ritirata e Cavaliere ribadì la volontà di resistere sul posto. I fattori politici erano ormai prevalenti, perché i contraccolpi di un ripiegamento dell'armata al confine libico-egiziano sarebbero stati molto seri, non soltanto in Italia, sul piano psicologico e propagandistico per la tenuta del fronte interno. Si decise pertanto di restare, anche perché i britannici stavano pagando un pesante pedaggio all'ostinata reazione dei reparti italo-tedeschi. Tanto è vero che la 23esima Brigata Corazzata Britannica, appena giunta dal Regno Unito dopo aver compiuto il periplo dell'Africa, venne interamente distrutta. A fine luglio, dopo un ultimo attacco britannico, i combattenti scemarono di intensità. Il 29 e 30 luglio Rommel, riacquistata la calma, condusse Bastico in un minuzioso giro di ispezione allo schieramento italo-tedesco. Ormai la parola era ai genieri, che stavano guarnendo la linea di mine e ordigni di ogni tipo. Nascevano nel deserto i giardini del diavolo. Il podcast di Rivista Militare, 80 anni da El Alamein, vi dà appuntamento al prossimo episodio.